as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo ancora qui su Radio Città Fucico 103.1 alla trasmissione dei noi operai metalmeccanici al Pane delle Rose. C'è stata la manifestazione 20 maggio, sindacati di base uniti sono scesi di nuovo in piazza, questa volta contro la guerra. C'è stato uno sciopero generale di tutti i sindacati di base in Italia. Abbiamo intervistato Michele Cirinesi dell'SGB, è un OS, un operatore sanitario del Sant'Orsola, è un compagno, l'abbiamo intervistato quando c'è stata la pandemia e oggi lo intervistiamo perché lui è stato tra quelli che insomma ha animato questo sciopero, la manifestazione di Bologna, e abbiamo chiesto a lui le motivazioni, cosa si aspetta per il futuro e quello che accadrà secondo lui dopo questo sciopero, come andrà avanti la lotta di sindacati di base. Adesso un bellissimo pezzo e poi ascoltiamo Michele Cirinesi e poi ci sentiamo per le conclusioni. Positive body control. Amor, pero solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satan dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad. Piden unidad, piden unidad. Hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me van a comprar. No worry, no worry. Me absolutions every morning. No worry, no worry. Me a hustler, food is coming. No worry, no worry. Babylon, na na na, stop we growing. So no worry, no worry. Be you, Si gira derecha, gira a la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa pero aquí en el porrio no dura ni ente. Están vacíos por dentro y aseguro ni lo entienden. Piden unidad al hombre del cash, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así amplía capital. Piden unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida no habría tanta necesidad. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Y piden unidad, piden unidad. Y hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Y piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me van a contar. Y prenden, prenden fuego al sudor de mi frente. Y prenden a los artesanos cuando venden. Prenden, prenden en la calle al indigente. Y prenden al que no vela sus intereses. Venden solamente lo que ellos quieren. Si venden a su madre por 20 billetes, sienten ser superiores a otros seres. No van por el camino, les guió Mefistófeles. No worry, no worry. Me absolutions every morning. No worry, no worry. Me a hustler, food is coming. No worry, no worry. Babylon, na na na, stop. we growing. So no worry, no worry, be you. Creato una historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Ciao Michele, sono contento di intervistarti, finalmente ci risentiamo, è un po' che non facciamo due chiacchiere. Oggi manifestazione dei sindacati di base contro la guerra e contro il finanziamento alle spese militari del governo Draghi, manifestazione di Bologna, volevo sapere insomma com'è andata e parlaci un po' di questo sciopero generale, delle motivazioni, di quello che vi ha spinto finalmente a scendere in piazza tutti uniti e a manifestare. Buongiorno a te, Gian Placido, e a tutti gli amici della radio che vi seguono. È un programma veramente bello, complimenti ancora. E guarda, oggi è stata una giornata importante, è stata bella, partecipata, e finalmente ha visto un'unione che è la continuazione anche del rapporto diretto che abbiamo tra sindacati di base instaurato l'11 ottobre dell'anno scorso, ma quest'anno è ancora più accresciuto dal, naturalmente, quello che è sotto gli occhi di tutto, cioè una guerra iniziata dalla Russia contro i paesi di NATO e con gli USA in prima fila, che vede tra i partecipanti co-belligeranti, perché forniscono armi a uno dei tuoi contendenti senza rispettare l'articolo 11 della nostra Costituzione, vede il nostro paese, vede l'Italia e il governo Draghi che è entrato in guerra senza, diciamo tra virgolette, dire niente al Parlamento o sottotacendolo al popolo italiano. Quindi stanno facendo una guerra che porterà a disoccupazione, una guerra che sta avanzando nell'economia di guerra, con un aumento spropositato delle spese militari, che naturalmente arriverà al 2% del PIL, come già stato dichiarato dal governo. Ed oggi la risposta anche della città di Bologna e di altre della regione Emilia-Romagna, perché questa era una manifestazione unitaria regionale, è stata bella, partecipata, colorata, e naturalmente è stata dei lavoratori che hanno scioperato, ricordiamolo, hanno messo un pezzo del loro salario in questo sciopero, ma per rivendicare alcune cose che sono veramente necessarie, cioè uno per tutti, il blocco immediato dell'invio delle armi in Ucraina, due, la cosa ancora più importante, l'immediato cessato il fuoco, il taglio del 90% delle spese militari, trasferimento di tali risorse, perché sono risorse, ricordiamo, che vengono tolte alla scuola, ai trasporti, alla sanità pubblica, il congelamento dei beni di prima necessità, perché come vedremo ci sarà una guerra alimentare, e questa è una guerra alimentare. Nei prossimi mesi molte popolazioni, tra cui anche quelle africane e molti poveri del nostro paese, la pagheranno cara, perché ci sarà una crisi alimentare che naturalmente i nostri, tra virgolette, politicanti non riescono a vedere, non riescono ad entrare nell'ottica che questa guerra genera solo fame, disoccupazione e altre. E in più chiediamo che vengano rispettati naturalmente gli aumenti che dovrebbero servire per combattere l'inflazione che loro stessi stanno creando con questa guerra. Ecco, questa era una motivazione per cui stamattina Bologna c'è stata una bella risposta da parte di tutti quanti i lavoratori che aderiscono ai sindacati di base e di anche di tante altre associazioni, tra cui partiti, associazioni sociali che si battono perché questa guerra, questa è come tante altre, perché non ricordiamoci, non c'è in giro per il mondo ci sono tantissime guerre alla quale i nostri governi continuano a pagare soldi dei contribuenti, dei cittadini e dei lavoratori. Questa è stata una bella risposta da parte di Bologna. La seconda domanda che ti facciamo è che riguarda il tuo settore. Tu sei un OSS, sei un funzionario dell'SGB, della sanità. Sappiamo che Draghi ha ridotto la spesa sanitaria dell'8%, però ha trovato immediatamente 13 miliardi per le spese militari. Voi siete in piazza anche e soprattutto per questo, immagino molti tuoi colleghi della sanità siete davvero arrabbiati, eravate gli eroi, alla fine vi stanno sacrificando, perché chiaramente questi 13 miliardi vengono fuori anche da un taglio della spesa sanitaria. Dunque pare che non siete più gli eroi, non è più importante la sanità pubblica in Italia come era da un po' di tempo fa, e parlaci un po' di questa situazione. Eh beh, questa per noi è una situazione drammatica perché sì, come dicevo prima, tutta l'economia di guerra la stanno facendo pagare allo Stato sociale, alle scuole, ai trasporti e alla sanità pubblica. Come sanità pubblica naturalmente non siamo più che preoccupati, noi vediamo ogni giorno di più erodere il nostro salario, vediamo che l'inflazione ci sta già mangiando quei 4 soldi che dal contratto nazionale che è in prossima scadenza e che è già scaduto e che dovrebbe essere già stato rinnovato, ma invece ancora la prende per le lunghe. Noi vediamo che ci sono incentivi che sono briciole, ma veramente ridicole, perché alla fine sono già stati quei 4 spiccioli che ci vogliono dare, ricordo un 75 euro lordi di aumento in busta paga agli infermieri e 40 si parla di 40 euro agli operatori sociosanitari, cioè questi qua se li siamo già mangiati con l'inflazione che aumenta. Tanto è vero che stanno cercando anche di dare incentivi per coprire la crisi, quei 200 euro una tantum, ma non parlano di contratti. Questi aumenti saranno importanti, perché naturalmente noi vediamo anche, come tutti i cittadini, che i generi alimentari aumentano, che la casa aumenta, che l'affitto aumenta, il mutuo per la casa, le spese per i bambini. Noi ci troviamo in una situazione di lavoratori, quelli che una volta si chiamano operatori quasi poveri, perché se non facciamo in due a lavorare in famiglia facciamo fatica ad arrivare a fine mese. Questa è una situazione che i nostri governanti non stanno avendo nell'ottica, e che naturalmente porterà anche a di servizi fortissimi nella sanità pubblica, di servizi che i cittadini pagheranno in prima persona, perché un abbassamento della qualità dell'erogazione dei servizi naturalmente va a discapito della salute anche dei cittadini, perché sono loro i primi fruitori. Uno con un aumento esponenziale anche delle graduatorie per entrare e svolgere operazioni normali. Vi faccio per dire, per una cataratta ci vuole quasi un anno per vedersela togliere e ad avere delle visite mediche. Se non hai soldi, naturalmente arrivi ad aspettare tempi biblici. E tutto questo naturalmente con non trasparenza, con manager che vengono invece profumatamente risarciti di bonus dalla quale vengono presi dai fondi dei lavoratori, e purtroppo naturalmente noi vediamo anche un blocco di tutti quanti i sindacati confederali che non riescono ad ottenere, non riescono a tutelare i diritti dei lavoratori. Noi siamo, come sindacati di base, siamo impegnati in prima proprio linea per cercare di far capire che un lavoratore soddisfatto del proprio salario, un lavoratore che è messo nelle condizioni, un lavoratore sanitario parlo, nelle condizioni di lavorare, è un lavoratore che lavora molto meglio di uno che è sottopagato, è sfruttato, con turni di servizio superiori alla media, con turni di riposo invece che non si riesce a recuperare le proprie forze psicofisiche, e naturalmente, ripeto, quello, i primi a pagare saranno i cittadini che hanno un disservizio da tutto questo. Noi crediamo e sappiamo che la corda è stata tirata fino adesso, ma la sanità pubblica è stata una delle più martoriate da parte di questo governo, un governo che ha in mente solo le privatizzazioni dei servizi e il cercare di impostare anche i fondi del PNRR nella costruzione di strutture che non verranno date alle strutture pubbliche, perché naturalmente già si lamentano, abbiamo visto i giorni scorsi il lamentio da parte dell'assessore Donini che non ci sono i soldi che il governo doveva stanziare per il Covid, cose che magari se ne poteva accorgere anche prima se faceva un giro negli ospedali che naturalmente sono sotto organico e mal pagati. Però naturalmente tutte queste cose le abbiamo pagate noi lavoratori, e a noi lavoratori oggi non viene dato neanche più la pacca sulla spalla che veniva data durante il periodo Covid. Sì, è vero, siamo incazzati neri, perché naturalmente la nostra funzione è svilita, è sottopagata, e naturalmente tutto questo non fa bene né alla sanità pubblica né allo stato sociale, ma però sotto il progetto è quello che dicevo prima, cioè quello della privatizzazione da parte della sanità pubblica, e tutto questo naturalmente a noi come lavoratori sanitari del pubblico non può che essere nocivo per noi e per i cittadini. Terza e ultima domanda, ti vorrei chiedere una cosa che noi, come ad esempio come italmeccanici, la stiamo affrontando, siamo la questione dell'aumento dell'inflazione. Ci sta devastando in termini economici, ma questo riguarda tutti i lavoratori, solo noi metalmeccanici. Stiamo facendo una campagna di raccolta firme per una nuova scala mobile. Volevo sapere cosa ne pensi, visto che tu comunque sei un compagno di vecchia data, come me non l'hai vissuta appieno la scala mobile, però comunque sai di cosa si tratta. Volevo capire se anche voi, come segnale di base su questo aspetto, se scenderete in piazza e vi mobiliterete, perché io penso che ci sia bisogno. Beh, guarda, innanzitutto ti ringrazio per avermi dato meno anni di quello che ho, ma effettivamente io la scala mobile invece me la ricordo benissimo. Me la ricordo, ero un ragazzino, e mio papà naturalmente, come tutti i lavoratori, usufruiva della scala mobile ed era una cosa che naturalmente uno strumento in mano ai lavoratori, era uno strumento di parificazione naturalmente tra salario e inflazione. Sì, noi siamo d'accordissimo, io sono, almeno a livello personale siamo d'accordissimo, all'interno del sindacato, almeno generale di base, negli altri sindacati non è ancora stata affrontata questa situazione, noi stiamo iniziando a discutere proprio di questa situazione. Ben venga che la FIOM, i compagni della FIOM si organizzino per cercare di raccogliere delle firme, però naturalmente sappiamo benissimo che questa cosa va portata più a livello generale, vanno coinvolti cittadini, associazioni, partiti, sindacati, i sindacati di base, io penso che siano più che favorevoli a questa, alla reintroduzione della scala mobile, perché come dicevo prima anche abbiamo visto che i nostri salari, praticamente anche l'aumento salariale contrattuale, non è adeguato assolutamente al livello di inflazione che oggi è presente nel nostro paese, e la guerra per la quale oggi eravamo in sciopero è un fattore che moltiplica i disagi nei confronti dei lavoratori, perché tutte le guerre sono contro i lavoratori, e naturalmente noi pensiamo che i lavoratori devono essere contro la guerra. Ben venga l'iniziativa sulla scala mobile, ripeto, è un argomento da sviluppare per poter poi portare la maggioranza dei cittadini e dei lavoratori ad esprimersi con un esito favorevole. Siamo favorevoli alla reintroduzione della scala mobile. Run it. Let me tell you who we are. Baby, don't wait, I come. Christian John has got to move out of foundation. Bunch of people now make a family creation. Punch it a record, punch it and start the vibration. Alright, in these hard times, love to be love, no money to be love. I've sold me more than a million words. Love to be love, no money to be love. I've sold me more than a million words. Rich una puma, no matter what them chant. Light una dot, no matter where you want. Reggae music culture, our ammunition. Liberty, art, this planet is the mission. Allora, abbiamo ascoltato Michele che ci ha parlato delle ragioni dello sciopero, che dal nostro punto di vista sono sacrosante. Anche noi siamo contro la guerra, siamo contro il finanziamento della spesa militare in Italia. L'Italia vuole impiegare il 2%, sono 13 miliardi che saranno stanziati per armare l'esercito italiano. Stanno continuando a mandare armi, stanno facendo arricchire le fabbriche di armi di tutto il mondo. L'America è al primo posto e noi siamo al quinto. Questa guerra va avanti, ci sono sempre più morti e in Italia abbiamo una recessione che avanza in maniera spaventosa. Michele lavora nella sanità e lui è tra quelli che più sta soffrendo i tagli. Ha sofferto con la pandemia e oggi si ritrova ad essere un settore che, dopo tutto quello che ha passato, è uno dei settori in cui i tagli sono più profondi, in un settore che invece avrebbe bisogno di avere più aiuti. Il 2% dovrebbe essere utilizzato invece per aumentare le spese sanitarie invece di darlo alle armi. Ma purtroppo questo non accade, abbiamo un governo che non rappresenta gli interessi dei lavoratori, gli interessi dei cittadini. Abbiamo con lui parlato della campagna che a giornate di marzo stanno iniziando in tutti i luoghi di lavoro, la raccolta di firme per la scala mobile. Chiaramente lui è d'accordo, come molti compagni di sindacati basi chiaramente sono d'accordo. Lui ha detto una cosa interessante e intelligente, nel senso che questa campagna chiaramente è la sinistra sindacale che la sta portando avanti all'interno della CGIL, ma chiaramente ha bisogno di un supporto molto più ampio. È una campagna difficile, chiaramente abbiamo tantissimi nemici, la scala mobile è stata sconfitta dai padroni che hanno fatto di tutto perché, per farla fallire. Hanno vinto il referendum e questo ha portato all'abrogazione della legge sulla scala mobile. Chiaramente loro venderanno cara la pelle, la scala mobile significa meno profitti per i padroni, significa che loro non potranno far pagare la crisi a noi lavoratori. Chiaramente loro sono intenzionati a tenere i loro profitti e aumentarli alle spalle dei lavoratori. Speriamo che di questa campagna riesca, che si diffonda, che diventi una campagna generale. Però non possiamo dimenticare in questo momento la questione della guerra è importante, l'inflazione, la guerra, la carestia che è alle porte dei paesi del terzo mondo, siamo davanti veramente a un precipizio. Dobbiamo cambiare questo sistema perché stiamo veramente per andare a sbattere tutto il mondo. La guerra ci ricorda come l'imperialismo purtroppo usa la guerra per regolare i suoi conti economici a livello mondiale. Speriamo di riuscire a cambiare questa società e cambiarla a livello mondiale perché non ci siano più guerre e più ingiustizie e non ci siano più milioni di persone che non hanno da mangiare come sta accadendo oggi in tutto il mondo. Un saluto compagni, ci sentiamo alla prossima puntata. Risorgiamo, sorgiamo.